certamente Matteo Messina Denaro è l'unico sopravvissuto, cioè nel senso ancora in libertà, di quel nucleo duro, diciamo così, di Cosa Nostra, che deliberò, organizzò ed eseguì lo stragismo del 92. Quindi c'è anche una memoria storica, una memoria nel DNA di questa persona che sa come si raggiungono certi risultati. Esattamente, e siccome in questo momento è certamente capo incontrastato, quantomeno per la parte della Sicilia estremo occidentale, della provincia di Trapani verso la provincia di Palermo, e potrebbe incidere con le sue linee strategiche. Ecco, nel 93, nel 92 e 93 furono colpiti i magistrati e luoghi simbolo di questo paese. Oggi che cosa potrebbe essere colpito? Non è facile fare previsioni di questo genere. Io dico soltanto che può esserci la tentazione da parte dell'universo mafioso di nuovamente farsi sentire alla vigilia appunto di quella che si dice essere una prossima terza repubblica. Siamo in una fase molto delicata di difficoltà politica, di instabilità politica istituzionale, ed è questo il momento in cui in genere il potere mafioso cerca di fare sentire la sua voce e incidere in qualche modo. Certo.